We here for the music, for the dance, the party, for sharing, to have a good time, you know? Get the fuck off. She's an angry young Iraq woman. You are too passionate. Get the fuck off. I think you're fighting the wrong battle. Get the fuck off. Fuck off, off, off. Get the fuck off. We don't need to kill the vibe by talking about the worst misery, you know? Get the fuck off. My presence, our struggles, our presences, my words, my voice, my breath, my flesh and that of my peers, my body in motion, my bass, my snare, my kicks, my hits, my everything's about politics. Everything is about politics. Ore 18.30 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi martedì 14 ottobre torna finalmente Likewise. Bigger than your West, what I carry in my chest is bigger than your West, what I carry in my chest is bigger than your West, what I carry in my chest is bigger than your West. Bigger than your West. C'è da dire che noi siamo già innamorate follemente della nostra nuova sigla. Forse qualcuno che ha avuto la fortuna di ascoltare lo spottino per radio l'avrà anche già più o meno orecchiata. Likewise, stagione numero 5. Dopo ve la facciamo ascoltare la sigla, insomma, perché vogliamo anche parlarvi della DJ, producer e musicista che l'ha composta. Ma prima di iniziare la nostra quinta stagione, vogliamo raccontarvi le novità di quest'anno. Vogliamo prenderci un momento per dire alcune cose che ci stanno a cuore. Siamo mancati 3 mesi di pausa dalle trasmissioni e sono successe molte cose, purtroppo non positive. La situazione a Gaza, in realtà, nonostante questo finto accordo di pace, come sappiamo, è sempre peggio. Ci auguravamo di riprendere le trasmissioni in un mondo in cui almeno questo genocidio non fosse in atto, ma non è così. In questi mesi, però, siccome appunto Likewise non si occupa solo di musica, a noi preme raccontarvi queste cose, sono successe, ci sono state molte iniziative, sempre più numerose, sempre più partecipate a sostegno della Palestina ovunque e anche nel mondo della musica, che resta il nostro argomento principale. Ormai non si contano più le iniziative, ed è giusto così, grandi, piccole, per accogliere fondi, per sensibilizzare, concerti, esatto, l'opinione pubblica. Ne citiamo una, insomma, tra miliardi, una di quelle più grandi, il concerto organizzato da Brian Eno al Wembley Stadium, con il quale sono state raccolte 1,5 milioni di sterline. E ovunque, in realtà, anche piccolissime iniziative che sono importantissime, hanno fatto questo in questi mesi e continueranno a farlo. A Roma, come in tutta Italia, ci sono state grandi manifestazioni, l'occupazione simbolica della tangenziale, insomma, momenti anche davvero commoventi, perché in qualche modo c'è stata veramente una mobilitazione molto grande e molto emozionante. Sì, diciamo che questa pressione, che in qualche modo credo, anche se nessuno lo dirà mai, ha contribuito quantomeno a questo cessate del fuoco, perché dell'accordo, francamente, primo non riesco a chiamarlo di pace, secondo non mi sembra pienamente un accordo, anche perché i palestinesi non vengono mai nominati. Mi è capitato di ascoltare diversi TG, sia radiofonici che televisivi, dove non vengono mai nominati i palestinesi dentro questa situazione di accordo di pace. Ci sono sempre, vi ricordiamo che se volete chiamarci, non chiamateci mentre stiamo parlando, perché non vi possiamo giusto rispondere, giusto, aspettate che ci diventa pezzo. Complicato, grazie per, comunque, ci appena becchiamo la canzone magari prova a richiamarci allo 0649175050. Diciamo, ci sono stati questo accordo, che per me appunto non è un accordo di pace, sicuramente è anche stato spinto quantomeno il cessate del fuoco dalla grande pressione che c'è stata, sia in supporto della Global Summit Fottiglia, e penso che tutte e tutti sappiamo com'è andata, anche se non lo sapete, comunque anche su Radio Onda Rossa, sui redazionali sicuramente trovate moltissime corrispondenze di tutto quello che è successo prima, durante e quello che è successo dopo, nonché tantissimi cortei. Soprattutto devo dire che l'Italia in questo in questi ultimi mesi ha mostrato sicuramente un volto molto, molto solidale, quasi alle volte anche inaspettato, così forte, così ampio, soprattutto a Roma. Devo dire che a me ha stupito tanto, soprattutto quando siamo arrivati tipo al terzo corteo consecutivo in una settimana, molto molto partecipato, molto variegato, con tantissima gente. Non credo che sia stato indifferente, e la questione chiaramente non finisce qui, ma penso che questo sia molto chiaro soprattutto a chi scendeva nelle piazze. In realtà è molto chiaro, ed è appunto importante mantenere l'attenzione vivissima, perché come sappiamo in questi giorni di diciamo di presunto cessato il fuoco, in realtà non è cessato il fuoco, ci sono state morti e assassini anche diciamo in questi giorni, quindi insomma la situazione resta veramente molto grave. E come sappiamo il diciamo il progetto, il piano di genocidio che insomma sottende tutto quello che è successo è ancora purtroppo vivo nelle menti dei bastardi che lo compiono. Quindi insomma è tutto molto importante quello che è successo e quello che succede, che succederà. Noi ci accodiamo consapevoli che solo questa presa di posizione collettiva può effettivamente cambiare le cose. Quindi ci tenevamo a dire questo, e ci teniamo a dedicare questa prima puntata alla Palestina, ma a tutte le altre lotte che in questo momento sono in corso nel mondo e che hanno tutte la stessa, diciamo, lo stesso desiderio di giustizia e di diciamo liberazione dall'oppressione. La sigla è diciamo offerta gentilmente da Kumiya, il titolo del pezzo si chiama Ayau, e ora ve lo facciamo sentire bello tutto perché merita. Don't do politics or activism, you know, we here for the music, for dance, the party, for sharing, to have a good time, you know. Get the fuck off. She's an angry young Arab woman. You are too passionate. Get the fuck off. I think you're fighting the wrong battle. Get the fuck off. Fuck off, off, off. Get the fuck off. We don't need to kill the vibe by talking about the world's misery, you know. Get the fuck off. Presence, our struggles, our presences, my words, my voice, my breath, my flesh and that of my peers, my body in motion, my bass, my snare, my kicks, my hits, my everything is about politics. Everything is about politics. Everything is about politics. Everything is about politics. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is bigger than your West. Bigger than your West. Bigger than your West. Bigger than your West. Shufut Hekti, Shufut Nanny. When you're trying to mess with me, Shufu take the Shufu nanny. I don't take shit from nobody. Take your time to come, nanny. I've all my time to watch you lose it. Take your time, what's up, nanny? Makin Ayush, we know we kill it. Milties, gaslight, who the savior, who the savior? Bitches need us, need our bangers. Yella fakers, don't move your ass. So ludicrous, Raja il gas. Don't move your ass, we bring the cash, face the backlash. I'm not here to entertain you. I'm not an invitation to travel. I'm not a cool destination. I'm not an airline company. I don't need your money, you shouldn't think I'm your monkey. I don't need your spaces, I don't need your blessings. To know where I come from, I know where I'm going. Yeah, I'm a low-key person, I keep my low-key strong. You don't know nothing, you don't own nothing. You dominate nothing, we dominate nothing. L'Auelo. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is. Questa era Leila Comilla, una DJ, producer e musicista marocchina. Nella sua, diciamo, nelle sue selezioni musicali, nella musica che produce, ci sono appunto, come avete potuto sentire, influenze arabe e amazigh, con, insomma, mischiate alle altre sonorità, insomma, più tipiche di quella che è, insomma, la cultura dei club di cui anche lei fa parte. Tutto quello che fa è decisamente, come avete sentito, politico, visto che everything is about politics, come avete potuto sentire, insomma, è il tormentone di questo pezzo che ci accompagnerà in tutta la nostra quinta stagione. È una DJ resident di una radio che si chiama Radio Flowka, che poi a un certo punto di questa stagione, di cui parleremo a un certo punto di questa stagione più diffusamente, che è una stazione radio online che ha base a Parigi e che appunto ha un, diciamo, ospita un gran numero di show, DJ set, eccetera eccetera. E noi personalmente l'abbiamo conosciuta e poi abbiamo trovato questo pezzo che ci ha fatto innamorare attraverso un progetto di radio comunitaria sempre francese che si chiama Kiosk Radio. Poi vi metteremo il link per andare a spulciare anche questo progetto molto interessante, non francese scusate, ma di Bruxelles, che è praticamente un chiosco in un parco di Bruxelles che ospita una stazione radio, dalla quale spesso appunto vengono anche mandate i live di chi sta mettendo musica. Mentre questo pezzo lo trovate però all'interno di una compilation che si chiama Resistenza Sonora Mediterranea, che è uscita a maggio del 2025, chi ha promosso questa compilation ha detto: abbiamo deciso di mappare il panorama musicale contemporaneo del Mediterraneo, una regione plasmata da storie diverse, lotte attuali e una ricca rete di scambi culturali. Da Marsiglia, dove ha sede la nostra etichetta, che è quella che ha pubblicato la compilation, i nostri legami con il Marocco, l'Algeria e la Tunisia fanno parte del cuore pulsante della città, così come quelli con il Libano, la Palestina e l'Egitto. Non si tratta quindi di una scena curata o di un'estetica unificata. Nella compilation Resistenza Sonora Mediterranea si riuniscono invece diverse forme musicali, dal rap alla techno, alla trap, al bass, al noise, all'electro e al chubby. Quindi se cercate anche la compilation, che effettivamente, come dicono, insomma, chi l'ha curata, è molto varia, perché non gli interessava fare una compilation, diciamo, con un'estetica musicale univoca, ma invece con un messaggio collettivo, in qualche modo, che potesse abbracciare questa idea di musica resistente, in qualche modo anche combattente. Cercatelo, uscita a maggio del 2025, si chiama Resistenza Sonora Mediterranea e c'è questo pezzo qui dentro che sarà la nostra sigla di quest'anno. Le autrici che sentirete oggi, che sarà una puntata un po' particolare, come sapete noi cerchiamo di farvi ascoltare cose nuove uscite nel panorama della musica, soprattutto DIY, fatta da donne, non binary e persone trans, ma questa sera, diciamo, ci concentriamo in realtà, come dicevamo, su quelle che sono le canzoni che in qualche modo sono legate a alcune battaglie, quella della Palestina, quella del, diciamo, di quello che sta succedendo in America con le persone migranti e non, nel senso che persone, esatto, che sono nate e cresciute in America e molte altre. Quindi, insomma, sarà una puntata un po' speciale. Quindi ci saranno, ascolterete Dana Sala, Earth to Eve, The Neighborhood Kids, Zainab Shat, Rufaida, Nemasis e Big Bill, che insomma completeranno questa scaletta. Prima di cominciare, i nostri riferimenti sono likewise_trx, che è il nostro canale Telegram, insomma, con il quale possiamo ricordarvi i nostri podcast, insomma, le nostre scalette, e poi se potete scriverci likewise@ondarossa.info. Ringraziamo Radio Onda Rossa, che sta sempre qui, che resiste e persiste, insiste con, diciamo, tutto il lavoro che fa sempre. Lo sapete che potete aiutarla, basta andare su ondarossa.info in qualsiasi momento e fare una donazione, perché questa voce resti sempre viva. Cominciamo. Sono le 18:44. Cominciamo. Per chi non se ne fosse accorto, che per chi arriverà magari d'abitudine alle 7, quest'anno Likewise comincerà invece alle 18:30, finirà alle 19:30. Ma non vi preoccupate, che comunque troverete sempre i podcast sul sito della radio. Dana Sala, Yatalain. يا طالع عين عين للجبل يا مول لمقيدين النار بين عين الليل يا مان يا مان عين الليل هنا يا روح ما بعتي منك ليلكم خلعة ولا لا لا لا بدي زنار بين الليل يا مان يا مان عين الليل هنا يا روح إلا tasted freedom, soon those hellish skies turn to blue and starry nights. As our voices start to rise, we're ending an apartheid. Questa era Dana Salah, Yatalain, era il titolo di questa canzone, che è una personale versione di un canto tradizionale ritornato celebre qualche anno fa, perché riportato in auge da un gruppo che si chiama El Funun, Palestinian Popular Dance Troupe, che è appunto un collettivo gigantesco di circa un centinaio di elementi, che appunto si ispira alle danze popolari arabo-palestinesi e che porta in tutto il mondo appunto progetti artistici che si ispirano a queste danze e chiaramente le interpretano in un contesto contemporaneo. Yatalin è un'espressione araba che significa o voi che salite, quelli che salgono, e che è appunto una canzone molto antica che veniva cantata dalle donne palestinesi e alle persone imprigionate sotto l'occupazione britannica. Quindi poi chiaramente con questo senso di diciamo in qualche modo di come posso dire, speranza e di in un regime oppressivo che continua a esistere, è stata recuperata in varie modalità, e quindi anche Dana Salah ha diciamo proposto la sua personale versione pochissimo tempo fa. Lei, se possiamo dire qualche parola sull'artista, visto che comunque non è passata da qua, se non la conosciamo, ha iniziato a comporre dall'età di 9 anni. Lei è giordana, ha studiato poi in Inghilterra, è stata giordana palestinese, e ha studiato poi, scusate, non in Inghilterra, in America per tantissimi anni, è rimasta anche lì, ha iniziato lì insomma in qualche modo a occuparsi di musica, a comporre, produrre, arrangiare, scrivere pezzi. Lo faceva con uno pseudonimo che è King Deco, e durante la pandemia invece poi è tornata nella sua terra in Giordania e ha iniziato a scrivere e a cantare pezzi in arabo. Poi è successo quello che è successo, insomma, 2 anni fa a Gaza, e in seguito a questo ha iniziato a scrivere diverse, a riprendere diverse cose. Ha fatto parte anche di una compilation nell'ottobre dell'anno scorso, del 2024, con altri 24 artisti nordafricani e medio orientali. Hanno cantato una canzone che si chiama La Jean, e ha inciso di nuovo questo pezzo, appunto, che era questo tradizionale che abbiamo, che vi abbiamo fatto ascoltare. Il secondo pezzo di oggi si chiama, lei si chiama Earth to Eve, Threat Level Orange. Unrest. All forms of protest are now classified as acts of terrorism. This is not a test. This is not a test. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line them up like dominoes. Never bow to a bitch in a toupee, yelling free speech but controlling what the news say. The Lorax called, it's time to find a new shape. RuPaul's never seen a beat that bad on Drag Race. Ain't it obvious the person in the office is a racist? Brat came in the mail, but he opposes immigration. And someone's apple leader, not a foreign armed invasion. That would be the mass man reading graduation ceremonies. Unmarked vans snatching people off the street. Broken Amendments 5, 10, and 14, at least. But please tell me again, oh, this is still democracy? Repeat. This is not a test. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like dominoes. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like dominoes. Please explain it to me. The man in charge of the economy's got 6 bankruptcies. Huh? Asking ChatGPT to define GDP, to fund an education when half the country can't read. Well, now it's clicking for me. You need the people asleep. And knowledge is the greatest threat to propaganda machines. Remember, books don't burn, they just quietly vanish. So don't wait till it's too late to panic. Iceberg, Titanic, threat level orange. Don't you see that they're ignoring our rights? It's fascism wrapped in red, blue, and white. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like dominoes. Coward, traitor, liar, foe, grab a tyrant by the toe, fuck a fascist puppet show, line him up like dominoes. It's a threat level orange. Warning. It's a threat level orange. Warning. It's a threat level orange. It's a threat level orange. The American dream's like any other. Open your eyes and it's gone. Earth to Eve, un po' delle cose che dice in questa canzone. Per favore spiegami, l'uomo responsabile dell'economia ha 6 fallimenti alle spalle e chiede a ChatGPT cos'è il PIL, taglia i fondi all'istruzione mentre metà del paese non sa leggere. Ora mi è chiaro, hai bisogno che la gente dorma perché la conoscenza è la più grande minaccia per le macchine di propaganda. Ricorda, i libri non bruciano, svaniscono silenziosamente, quindi non aspettare che sia troppo tardi per farti prendere dal panico. Iceberg Titanic, allerta arancione, non vedi che stanno ignorando i nostri diritti? È fascismo avvolto nel rosso, bianco e blu. Ma sarebbe quasi da leggere tutto, secondo me. Poi anche la fine che prende in giro uno dei grandi miti americani, quello del famoso sogno, dice guarda che poi i sogni, il sogno americano è come tutti gli altri sogni, quando ti svegli è finito. Esatto, l'artista indie pop di Los Angeles Earth to Eve è una musicista diciamo molto interessante. Ha cominciato, diciamo, non tantissimo tempo fa, il suo primo singolo è del 2022, si chiama Everyone Says, ed è una giovane artista che ci mette tutto, la faccia, il corpo e la sua storia. Il, appunto, Everyone Says era, parlava di del suo disturbo bipolare, del fatto che appunto le persone ti additano, ti diciamo mettono un'etichetta, nel suo caso la pazza, e quello diventa in qualche modo quello che tu cominci ad essere, ricomincia a rispondere a quello che è in qualche modo l'etichetta che ti hanno dato. Molto dobbiamo dire che in realtà questa canzone è stata un po' in lotta per un po' di tempo con per essere la nostra sigla, ma poi diciamo in realtà ha vinto quella che abbiamo scelto per varie ragioni, anche insomma per il testo che ci sembrava ancora che sembra quasi per noi un manifesto, insomma il testo della sigla di quest'anno, in qualche modo tutto è politico, anche una riflessione sulla musica stessa, cosa che faremo molto quest'anno. Alec Wise, faccio uno spoiler delle cose di cui parleremo tra pochissimo. Poi secondo me non è un artista che neanche forse avremmo incontrato troppo nella musica di Alec Wise, perché ha un indie pop molto molto pop in qualche modo, ma chissà se con questa canzone invece non stia un po' cambiando, anche prendendo forza e cambiando un po' sonorità, cambiando un po' stile, perché... Ma è vero che probabilmente diciamo non è nei nostri canali di ascolto, anche se in qualche modo devo dire il suo modo di comporre, non questo pezzo in particolare ma le altre cose come quella che stiamo ascoltando in sottofondo, mi ricordano un po' diciamo lo stile compositivo di Regina Spektor, e quindi insomma chiaramente molto acerba, però secondo me ci sono delle belle sonorità, delle belle cose, delle belle vibes. Quest'anno Alec Wise, tra le altre cose, avrà anche delle piccole rubriche per allietarvi il vostro martedì dalle 18:30 alle 19:30. Una di queste rubriche a cui io tengo molto, non so quando comparirà, ma comparirà a un certo punto, ve ne accorgerete, si chiamerà lo smadonnamento. Quella comparirà sicuro, perché... Già lo facciamo di solito, esatto. Ma abbiamo deciso di sistematizzarlo. Esatto, l'abbiamo strutturato. Sceglieremo un tema, diciamo uno di quelli che ci stanno particolarmente a cuore in quel periodo, e dedicheremo a questo tema 2 minuti a testa, senza contraddittorio, senza, cioè un monologo delirante in sostanza, lo diciamo proprio subito. Delirante no. Delirante, io me lo rivendico. Cioè, l'orgoglio. In cui non ci sarà nessun contraddittorio, ma la cosa interessante è che questo smadonnamento potrà essere collettivo, quindi ci potete mandare anche i vostri 2 minuti di smadonnamento, ci potete mandare diciamo un file audio, ci potete scrivere, allegare appunto 2 minuti ce la possiamo fare, o ci mandate un link dove scaricarlo al vostro smadonnamento, quindi è una cosa che veramente vi fa impazzire, che non ce la fate più, che vi volete sfogare, dedicate a questa cosa 2 minuti, due. Ora, siccome è chiaro che sullo smadonnamento i temi potrebbero essere cioè molto ampi, soprattutto per chi vive in città e vive a Roma, non so, la prima che mi viene in mente sono il traffico, le macchine e l'auto, però quindi vi chiediamo in qualche modo magari di restare vicini, non dico proprio aderenti, ma a questioni che riguardano il mondo della musica, degli artisti, dei concerti, non lo so, ecco. Ma non lo so, oppure puoi provare, no, tanto sì, chi deciderà se mettervi in onda siamo noi insindacabilmente, per cui cioè voglio se dire, ci piace provateci. Il vostro smadonnamento, esatto. Su qualsiasi tema sia, promesso che passerà in onda. E prima di passare al prossimo pezzo, il terzo pezzo della scaletta, un'altra rubrica che tornerà anche quest'anno perché ci ha fatto compagnia l'anno scorso, si chiamerà Anche il pop fa cose buone, sarà una rubrica autogestita da Olivia, assolutamente imprevedibile e non programmabile, quindi insomma non saprete, a un certo punto apparirà sul pop e i fenomeni che insomma in qualche modo sorprendentemente entrano a far parte anche, non dico del mainstream diciamo in senso proprio, ma comunque attirano un grande pubblico in maniera sorprendente, perché non noi ce l'aspettavamo, ma non se l'aspettavano gli altri, ecco. Quindi in qualche modo ci insegnerà cose che Likewise non sa insegnare, e quindi ci racconterà cose che dovete invece sapere. Come Chaperone, vi ricordo che i nostri podcast passati c'è una doppia rubrica su Chaperone, e spero che nessuno di voi ne parli male, perché è una grande artista. Esatto, l'abbiamo scoperto anche noi. Anche se musicalmente non vi piace. Terzo pezzo di questa scaletta, lei si chiama Rofaida Kness. The Palestinian struggle is not just a cry for justice. لانا بلد من كلامنا تتكلم تتكلم لأسني تدربي على حجري من حجر أنا بلد من كلامي تكلم تكلم لأسني تدربي على حجري من حجر Don't let people wait, travel, but we return nowhere E questa era Ken Ness dell'artista Rofaida, artista marocco-olandese. Questo è il terzo singolo uscito dall'album che si intitola Coming Up for Air, che è uscito qualche giorno fa, il 10 ottobre. Ken Ness è un brano, come avete sentito, dalle sonorità molto afrobeat, ispirato alla poesia di un celebre poeta palestinese, Mahmoud Darwish, che si chiama, cioè che diciamo si intitola Viaggiamo, in una traduzione molto approssimativa, Viaggiamo come chiunque. Comunque altro, e il singolo, noi vi linkeremo anche il video di questo pezzo che avete ascoltato, girato a Gaza. Lei racconta come tutti viaggiamo ma non ritorniamo da nessuna parte, dice insomma il pezzo, chiaramente incarnando con la voce e con le parole di questo pezzo il dolore e la resilienza degli esiliati palestinesi. Il brano usciva in occasione della commemorazione della Nakba e diciamo dalle sue parole, magari se ti va di leggerle, insomma sentiamo anche un po' quello che ci voleva dire l'autrice. Mentre il mondo osserva in silenzio, i leader tacciono, le proteste si fanno più forti. Questa canzone è il mio contributo per denunciare le gravi violazioni dei diritti umani, ma anche un omaggio alla dignità e alla resistenza del popolo palestinese. Questo brano è nato dall'impotenza, ma anche dal desiderio di opporre al disumano qualcosa di profondamente umano. E in questo, diciamo, video che poi appunto vi linkeremo, insomma, in una collaborazione olandese marocchina, due videomaker palestinesi, Youssef Masharawi e Mohamed Yaghi, hanno potuto realizzare un videoclip direttamente a Gaza. Poi vedrete, se vi va di guardare il video, insomma è un video molto toccante, con appunto la sua colonna sonora. Sono le 19.03, quella che state ascoltando è Likewise, la stagione numero 5, la puntata, non l'abbiamo detto oggi, ma questa è la puntata numero 118, perché abbiamo scelto comunque di mantenere il progressivo, certo. Perché sennò è che non sarebbe divertente. Esatto. Ci potete chiamare allo 0649 1750, ci potete scrivere a likewise@andarossa.info, e avete voglia quest'anno a scrivere, perché appunto noi possiamo lanciare un'altra rubrica. La lanciamo adesso o dopo il pezzo? No, lanciamola adesso, una rubrica a cui tengo molto, si chiamerà Recensioni dal futuro. È nata quando, insomma, durante quest'estate sfogliavamo delle vecchie riviste musicali, in particolare io stavo sfogliando una rivista di jazz abbastanza blasonata italiana, e sapete che insomma le riviste specializzate poi in genere alla fine della rivista hanno delle pagine dedicate, tutto, sì. Anche adesso, delle pagine dedicate alle nuove uscite, quindi ai commenti, le recensioni, eccetera eccetera, e in questa rivista, come dicevo, di jazz non c'era un album fatto da una donna, a parte Rita Marcotulli, che ancora probabilmente è l'unica donna nel jazz che viene recensita. Esatto. No, insomma, un po' le cose sono cambiate, ma in ogni caso era una rivista della fine degli anni 80, inizio anni 90, insomma, poi vi racconteremo meglio quando sentirete Recensioni dal futuro, ma insomma questa cosa ci aveva un po' ispirato, facendoci pensare, ma sarebbe carino insomma vedere, andare a cercare in quegli anni che cosa era uscito che non era stato recensito, e cosa invece, come sono cambiate le cose adesso su queste riviste, se sono cambiate. Ma su alcune credo proprio di no, perché uno dei motivi per cui avevo smesso di comprare riviste musicali è che le recensioni erano al 99% di dischi scritti, insomma, prodotti e musicati da uomini, e molto poco spazio era dato alle artiste. Ci ho riprovato poi nel corso di anche forse uno o due anni fa, e la situazione mi sembrava anche peggiorata, quindi non lo so, migliorata sicuramente la forse negli anni 80 troviamo qualcosa in più, ti dirò. Chissà. Ho questa idea. Un'altra rubrica che ascolterete in questa stagione si chiamerà Cover Indie, ed è una rubrica in cui vi racconteremo la storia di una cover che dovete assolutamente conoscere, o che magari non sapevate nemmeno che fosse una cover. Qualche volta succede, insomma, che si scopre che una canzone anche di grande successo poi in realtà viene da un'altra canzone, e soprattutto, come sapete, vi racconteremo storie di cover che hanno un po' un significato politico un po' più interessante, ecco, o che in qualche modo nel rifarla hanno assunto un significato politico che magari prima non avevano. Esatto. Quarto pezzo. Vai. Lo annuncio io. Sì. Allora, lei si chiama Zainab Shat, The Urgent Call for Palestine. Thank you. to hear the urgent call of Palestine. Can't you hear the urgent call of Palestine, Palestine? Tormented, tortured, bruised and battered, and all her sons and daughters scattered. Can't you hear sweet sad voice of Palestine? Can't you hear the sweet sad voice of Palestine, Palestine? She whispers above the roars of the guns, beckoning to all her daughters and sons. Can't you hear the agony of Palestine? Can't you hear the agony of Palestine, Palestine? Liberation banner, raise it high for Palestine. Let us do us heed the urgent call of Palestine. Let us heed the urgent call of Palestine. Let us heed the urgent call of Palestine. Questa era la voce di Zain Abshat con questo pezzo, in questa canzone incisa nel 1972, che è... però poteva essere incisa benissimo ieri. Esatto. Lei è una cantautrice palestinese egiziana che appunto ha fino diciamo agli anni 80 suonato, insomma ha prodotto molte cose, ma la storia di questo pezzo in particolare è una storia di questo pezzo dell'EP all'interno del quale era contenuto questo pezzo, è una storia abbastanza diciamo come posso dire significativa, emblematica rispetto a quella che è la storia anche al rischio e al continuo come posso dire tentativo di cancellare la cultura palestinese da parte dello Stato di Israele, e che diciamo non nasce adesso, ma che è una cosa che succede da sempre. In particolare questo l'EP che conteneva appunto questa canzone era praticamente finito nell'archivio dell'IDF, questo come tantissime altre cose, durante appunto l'invasione del Libano, e quindi praticamente era stato insomma cancellato, distrutto. Fondamentalmente non distrutto, perché in realtà è stato recuperato, ma diciamo occultato come materiale diciamo sottoposto a restrizione. Nel 2021 il fondatore della etichetta Discostan, Acha Ak, ha ritrovato questo EP, ha contattato l'autrice e ha cominciato insieme ad altre persone che fanno parte del progetto Majaz, diciamo che si occupa di recuperare l'archivio musicale palestinese, ha diciamo restaurato questo EP che è uscito appunto a marzo dell'anno scorso, e i cui proventi sono diciamo andati ovviamente al sostegno della popolazione di Gaza. Quindi insomma per quanto un pezzo come posso dire datato, con un testo che però è attualissimo e che in qualche modo diciamo racconta anche una storia che è molto più lunga di quella che spesso vogliono spacciarci negli ultimi due anni, ma qui noi lo sappiamo bene. Appunto, il pezzo è del 72, ma la Nakba è del 48. Queste artiste sono appunto sparse, in qualche modo l'abbiamo visto, dalle provenienze diverse in tutto appunto la parte dell'Africa settentrionale e dell'Europa, e il pezzo del 72 risente di quel cantautorato che era tanto forte in quel momento. John Bates è la prima che mi viene in mente, ma direi che il pezzo è veramente totalmente attuale. È molto bello che si sia riusciti a recuperarlo, questo per dire anche qual è il tentativo continuo dello Stato di Israele di cancellare proprio la storia e la cultura dei palestinesi, e per fortuna non ci riusciranno. Un'altra rubrica o altre cose di cui vi parleremo quest'anno, la rubrica si chiamerà Notizie dal sottosuolo, perché se vivete su Marte o siete state scollegate dal mondo forse non lo sapete, ma insomma fondamentalmente diciamo in questo momento storico diciamo il boicottaggio, che è comunque una forma di resistenza e di protesta che si attua un po' su tutto, e che ha anche i suoi frutti, perché ultimamente sono tante le cose su cui insomma si è avuto successo, tante marce indietro, tanti posti che chiudono, tanti accordi che vengono diciamo rivisti. E quindi nessuna pretesa di insegnarvi alcunché, ma il desiderio di esplorare con voi un po' le contraddizioni, le ipocrisie e in alcuni casi veramente delle cose inaccettabili, soprattutto riguardanti alcuni strumenti che noi utilizziamo per fruire della musica. Lo streaming sicuramente, che insomma per quanto possiamo facciamo noi in particolare, ma sappiamo anche voi, comprare dischi, comprare cassette e quindi diciamo andare ai concerti e finanziare proprio materialmente la produzione musicale che ci interessa, comunque lo streaming è in qualche modo parte del nostro modo di fruire la musica, e quindi siccome lo è, in qualche modo proveremo a parlarne insieme e a esplorare le possibili alternative, le soluzioni che in qualche modo ci possono portare a incentivare una visione alternativa. Sì, ne parleremo insieme, anche perché appunto noi non siamo fuori dalla questione, ce ne siamo interrogate per tanti mesi, dai microfoni della radio non pubblicizziamo mai, se avete fatto caso, se ci seguite da tanto tempo, non pubblicizziamo mai dove sono le nostre playlist, non i podcast che stanno solo sul sito della radio, però le playlist delle nostre scalette, e che stavano ovviamente su un servizio di streaming che però dopo un attento esame abbiamo deciso di abbandonare, ma ne parleremo approfonditamente, proprio per conto non diamo lezioni a nessuno, anzi per prime noi ci facciamo le domande. Un'altra rubrica che probabilmente ci sarà a un certo punto, chissà quando, è l'unico noise che vogliamo, si chiama Sonic Youth, ed è riguarderà un tema molto vasto che ha a che fare un po' con le questioni quasi un po' antropologiche in realtà, e che forse investe di più noi che viviamo nelle grandi città, e questo il rumore, ma non solo il rumore, la musica non gradita, la musica in tutti i luoghi, il silenzio che non c'è più, la quantità di rumore costante che c'è nelle città, e anche di questo piano piano parleremo un po', anche per invitarci un po' a una riflessione collettiva e in qualche modo a darci dei contributi e a farci sentire parte dello spazio che viviamo, cosa c'è intorno a noi a livello sonoro. Quinto pezzo di oggi, The Neighborhood Kids, Fed Up. Until your feet go numb. This is for them kids that be so young. They should all grow up and be someone. I know what they should, what they shouldn't be. They don't think I rap, take a look at me. Used to the flame, no one cooking me. They be putting lines where they boogers be. Government be funding all the genocide. And they yet they like, we gon' let it slide. Rockin' life for people out in Palestine. Memory living on, we won't let them die. For my people that are still in the fields, and they working really hard for that food in your meal, and they only making pennies, better give them a deal. Send us freedom for my people, man, I mean it for real. I'm so fed up with all of the nonsense, fed up with all of the bombings. They keep on telling me, they keep on telling me, they keep on telling me. I'm so fed up with all of the nonsense, fed up with all of the bombings. They keep on telling me, they keep on telling me, they keep on telling me. For the kids out in Congo, mining every day for the cobalt. This is for the kids that you don't know, slaving for your Tesla and your smartphone, damn. Dug by the women and children's of bloody hands, and it's fled for a profit for the rich white man. Better fight back back, get your life back. Make them fight, and when I'm righteous, yeah, I might just dance on the system. Dance on the rhythm, yeah, dance for the village. Dance on the villains, yeah, dance on the system. Dance on the rhythm, yeah, dance for the village. Dance on the villains that be bombing and killing. There's blood on your hands, you wouldn't understand. Huh, there's blood on your hands, you wouldn't understand. I'm so fed up with all of the nonsense. Fed up with all of the bombings. They keep on telling me, they keep on telling me, they keep on telling me. I'm so fed up with all of the nonsense. Fed up with all of the bombings. They keep on telling me, they keep on telling me, they keep on telling me. Oh no, it's this. Shouldn't be. By the women and children's of bloody hands in this. Toast to the flame. Dance with the dance, spill it. Dance to the rhythm, yeah, dance. Neighborhood Kids, Fed Up, questo nuovo singolo uscito lo scorso agosto di questa band che è già passata alle nostre parti, di base a San Diego, California, che ha come missione, come dice sul suo Bandcamp, di dare voce a chi non ce l'ha. In questo momento in tour in Canada, niente po' di meno che con Tom Morello. Un po' Tom Morello ormai compare da tutte le parti, perché appunto qualcuno mi faceva notare, diceva beh, ma stava pure a Sanremo con i Maneskin. Sì, è sempre insomma uno che ha fatto parte dei Rage Against the Machine, quindi insomma ci fa piacere che in qualche modo senta, come dice in un'intervista, che questa band in qualche modo è la sua band preferita, perché appunto ha questo rage rap che lo entusiasma e che entusiasma anche noi, devo dire. L'altro singolo che è uscito questo scorso agosto, che sentirete sotto, si chiama Start the Fire, andrà in grossella la nostra lista delle B-Sides, che è un invito a bruciare tutto molto semplicemente, insomma è un'altra di quelle cose che ci piace ascoltare. L'ultima rubrica di cui dobbiamo parlare, no, la penultima, perché penultima. una la attueremo proprio. La penultima rubrica di cui parliamo sarà questa in realtà sarà un appuntamento mensile, quindi questo è quasi sicuro che una volta al mese ci sarà. Non sappiamo se decideremo una puntata precisa, cioè un martedì preciso del mese, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, l'ultimo, oppure a sorpresa, non lo so, questo ancora non lo so. Direi l'ultimo, restiamo l'ultimo. Togli le dita dallo skip, cosa che penso che un po' friccicolano sempre a tutti, queste vabbè questa non mi piace, questa va avanti, questa ok, no, invece siccome Likewise anche tentiamo tanto di raccontarvi i dischi, e molto spesso quando sentiamo i dischi vi diciamo andatevelo a sentire, non sentitevi solo un pezzo, non sentitevi solo quello, vi diciamo che abbiamo avuto difficoltà a scegliere tra tutti i brani perché erano tutti belli, quindi abbiamo deciso che una volta al mese insieme ci ascoltiamo tutto un disco. Mi sembra una fantastica idea. Ci ascoltiamo tutto un disco, ovviamente non ci possiamo ascoltare tutti i pezzi, ma insomma faremo un po' i vari passaggi del disco, e che insomma come sapete spesso raccontano delle storie complete che magari in un singolo non riusciamo a cogliere, quindi anziché con le parole proveremo un po' ad ascoltarlo insieme meglio, e quindi a far venire ancora più curiosità. Ma la rubrica di questa settimana che inizieremo, ma potremmo chiamare anche ascoltare con lentezza, e invece si chiama Pure la sola va bene, perché noi non spingiamo quella di questa sera, si chiama Pure la sola va bene. Vi raccontiamo un po' i concerti che ci sono in giro, i concerti che ci piacciono a noi, e cioè quelli insomma che sono abbordabili da un punto di vista economico. Poi ci sono sempre, diciamo, non è che vogliamo mettere tutto insieme, cioè chi può permettersi delle cose e chi può permettersi delle altre. In ogni caso i concerti che ci piacciono a noi, che stanno sotto una certa cifra, che sono fatti in posti possibilmente indipendenti, quando lo sapete noi vi diciamo solo la città, poi ve ne andate a cercare voi, perché quando sono posti che non sono centri sociali, posti occupati, appunto invece ci piace raccontare, sono problemi vostri andarvela a trovare, noi vi diamo la data e il luogo, poi a vostra, diciamo, discrezione andare a cercare di che si tratta, dove sì, sta. Sì, che è un po' una cosa che abbiamo sempre fatto, questo perché anche negli ultimi mesi abbiamo parlato tanto di concerti a Likewise, abbiamo parlato soprattutto, diciamo, nell'arrivare della stagione estiva, di tutti i festival, e in questo momento storico abbiamo parlato di tutti quei festival che erano oggetto di boicottaggio da parte degli artisti e non solo, per le, perché organizzati insomma da grandi fondi, molto spesso riconducibili a fondi israeliani, quindi c'è stata una fortissima presa di posizione di tantissime artiste che non hanno voluto suonare in questi luoghi mentre era in corso, mentre è in corso un genocidio. E quindi questo tema in qualche modo di cosa andiamo a vedere, come lo andiamo a vedere, chi c'è, chi non c'è, come funzionano, l'abbiamo un po' affrontato, ma ci piaceva invece mettere il fuoco proprio sui concerti, perché le tematiche che riguardano la musica dal vivo sono tantissime. Tra l'altro sta cambiando molto velocemente, molto sotto i nostri occhi negli ultimi anni, tutto il modo di fruire della musica dal vivo, che da una parte è diventato, diciamo, dopo l'avvento in qualche modo, se vogliamo, addirittura insomma di Napster, da Napster, insomma da quando è arrivato lo streaming, diciamo dagli MP3, poi con si è sistematizzato e economizzato in qualche modo, monetizzato con lo streaming. Molto spesso si dice che i live sono l'unico posto in cui un artista in qualche modo adesso può ancora guadagnare qualcosa. Questo è certamente vero, lo è certamente soprattutto per le situazioni per gli artisti più piccoli, che tra l'altro fanno grandissimi sforzi per organizzare i tour, perché i costi per organizzare i tour sono diventati invece sempre più alti, perché se non hai dei management alle spalle e devi fare tutto tu, il costo aumenta sensibilmente per te. Quindi molto spesso ci sono artiste che vanno a suonare per il gusto di condividere la propria musica, ma che spesso tornano a casa, diciamo, a conti pari, forse quando va bene, e altri che non si imbarcano in questa cosa proprio perché non riescono a sostenerla. In tutto questo vediamo i prezzi dei concerti aumentare sempre di più, sempre di più, sempre di più. E partiamo da un caso concreto che avviene nella nostra città tra poche settimane, neanche, sì, perché la data mi sembra che non è tanto più avanti. E viene a suonare Erika Badu, che da questi microfoni è stata anche menzionata nel corso di questi 5 anni di stagioni, e viene a suonare Erika Badu a Roma. Un concerto che è la celebrazione del suo secondo album, è il 25ennale dall'uscita, adesso aspettate che mi devo mettere gli occhiali da vicino, Mamascan del 2000, quindi siamo al 2025, quindi con l'occasione di festeggiare insomma l'uscita di questo disco è partito un tour americano. Erika Badu si fa la villa, Erika Badu si fa probabilmente la villa, e questo è uno dei temi, perché a un artista che in qualche modo non sta producendo più musica dal 2010, non perché noi siamo lì con l'orologio contato, lo sapete, mettiamo anche artiste che dopo 6, 7, 8 anni pubblicano qualcosa, però ci sembrano queste più che altro delle operazioni molto commerciali e che molto poco hanno a che fare. Assolutamente, con ma la è anche musica. Una battuta, perché sappiamo bene che Erika Badu non si farà la villa con i soldi del suo tour, ma se li farà Live Nation, cioè, che ha organizzato il tour e che ha fatto delle operazioni clamorose. Una di queste era, sapete che a volte succede che per lanciare, insomma, per pubblicizzare dei tour, ci sono in vendita biglietti prima della vendita dei biglietti ufficiale, che si chiamano Early Bird, cioè appunto in qualche modo tu sostieni quell'evento, in genere si fa per le cose più piccole, non per le cose grandi, e hai il biglietto del festival, l'abbonamento a un prezzo, diciamo, di favore un po' più basso. Per Live Nation, per il tour di Erika Badu, ha pensato bene di inventarsi l'early entry, in cui sostanzialmente si pagava il 40% in più del biglietto, del costo del biglietto normale, per entrare prima, una sorta di priority, no? Come nell'aereo, come sull'aereo, no? Che entri prima degli altri per trovare il posto migliore, che chiaramente poi, cioè, da in piedi perdi se vai in bagno, non so come fai, cioè metti un cartonato, non lo so, tuo, esatto. Un ologramma sulla prima fila. C'è gente che ha parlato quasi diciamo insomma, quel 40% del biglietto in più e sono andati venduti tutti, ovviamente questa è una cosa più grave, per fondamentalmente entrare prima degli altri, quindi insomma una cattiveria, anche proprio, no, il concetto è di una cattiveria incredibile. Più che altro di una cattiveria, perché come ci è capitato di chiacchierare una volta, questa cosa si è sempre fatta. Io stessa ho fatto nella mia vita un sacco di pomeriggi ad aspettare che aprisse il posto del concerto perché volevo stare in prima fila, solo che appunto una volta funzionava così: te compravi il biglietto, poi se volevi, pensavi di voler stare in prima fila e pensavi che ci sarebbe stata tanta gente per cui dovevi arrivare, che ne so, alle 3 del pomeriggio e non alle 7 di sera per metterti in fila per entrare, allora lo facevi. Diciamo che, come al solito, qui il capitalismo, che praticamente si è appropriato di, proprio dei nostri modi di fare, di stare nelle cose, ha deciso di monetizzare anche quello. Sei un fan della prima ora, non ti preoccupare, non devi faticare tu, basta che hai i soldi e ti facciamo entrare prima. Questa modalità di spacchettare, anche perché poi ci sono i pacchetti VIP, ci stanno anche i pacchetti, ho scoperto i PIT, che sono i posti in parterre che costano di più, perché sono i posti in parterre in una zona. Tu sai che non frequento questi. No, nemmeno io. Però per preparare la rubrica ho iniziato a farmi una cultura, perché effettivamente sono i posti e li portacci loro. No? Esatto, dovrebbero metterli, potremmo fare noi. Però ci sono questi biglietti che si chiamano PIT, che praticamente sono i biglietti del parterre, ma del parterre quindi davanti, quindi sempre queste cose esclude, che tu paghi di più perché in qualche modo sei sicuro che stai nella zona più vicina al palco, per capirci. Quindi se ti fai un entry prima nel pit e speriamo che ci resti. Insomma, quello che forse sarà in prima fila. Quello che faremo, insomma, in questi prossimi mesi, a parte insomma questo preambolo che comunque vi fa capire più o meno come siamo messi, almeno dal punto di vista della rabbia nei confronti di tutto questo, anche se noi andiamo a vedere concerti molto più piccoli e quindi in altre venue completamente diverse, con un'altra politica, in ogni caso questo è in qualche modo anche quello di cui soffrono queste venue, no? Quindi questi grandi eventi, di come funziona il meccanismo, e cercheremo anche di capire insieme quali sono i canali dove in qualche modo è più etico, tra virgolette, perché lo sapete che insomma di etico non c'è veramente nulla, ma insomma in qualche modo è più rispettoso delle artiste e di chi va a vedere la musica e la ama nel comprare, nel vendere i biglietti. Le date selezionate per questo mese che vi vogliamo annunciare in velocissimi, mi devi fare una sigletta su questa cosa. No, voce, ma devi, vabbè, comunque. Vabbè, che voce. Sono tante in realtà, perché lo sapete che in Italia tra ottobre e novembre succede perché un poi sacco di basta cose, perché arriva l'inverno. Se va il letargo. Domani Cocoroco suoneranno a Reggio Emilia, il 16 ottobre The Meffs, che è una bellissima punk band old school inglese, suoneranno a Milano. Il 17 ottobre La Luz, che è una band che ci piace moltissimo, garage tra Portland e Seattle, targato Sub Pop, approda in Italia con due piccole date molto interessanti, appunto il 17 a Bologna e il 18 a Torino. Jenny Beth il 18 sarà a Milano, tra l'altro a presentare il nuovo album che è uscito, ne parleremo nelle prossime trasmissioni. Xoxo suonerà al Centro Sociale Bruno di Trento, una seratona hardcore metal con questa band che viene da Zurigo, molto bella. Non vi diciamo invece del concerto di Nena che suona in Italia, non vi diciamo dove suona, ma non ce ne frega niente perché il costo del biglietto è sopra 50 euro e addio Nena per sempre. Il 22 ottobre Earthworms, che è passata da queste parti, suonerà a Roma, mentre Bar Italia saranno a Milano. Il 23 ottobre sempre Earthworms sarà a Ravenna, mentre una bella band che poi sentiremo con la Tura sarà a Carpi, le Cocoroco a Firenze. Il 24 Cocoroco a Milano, Earthworms anche, quindi chi sta a Milano c'ha il problema di scegliere dove andare. Noi invece possiamo stare a casa. Noi possiamo stare a casa, quel giorno ci riposiamo. Il 25 ottobre Kay Tempest sarà a Roma nell'ambito del Roma Europa Festival. I biglietti non sono proprio popolari, ma sono sotto i 40 euro, quindi insomma... Che già... Quindi insomma si è mantenuta in qualche modo in una, diciamo, una parvenza, però ripeto, questo fa parte di un circuito completamente diverso rispetto a quello che di solito accompagna i suoi concerti. Con la Tura saranno a Roma e Annika sarà a Ravenna, Annika che passerà nelle nostre programmazioni. 26 ottobre Kay Tempest a Bologna, Annika a Roma, si danno il cambio. 27 ottobre Kay Tempest sarà a Milano, Divide and Dissolve, una bellissima artista fantastica, veramente da andare ad ascoltare, ho visto l'anno scorso e mi è piaciuto moltissimo, sarà a Bologna. Annika a viene anche a Roma, incredibile. Esatto. 29. Invece sempre il 27 ottobre Annika a Collestate in provincia di Terni. Allora, amiche di Terni, ci raccontare di questa ex chiesa della Trinità che dovrebbe ospitare questo concerto il 27 ottobre di Anika? Perché noi non ne sappiamo nulla, vogliamo venire a vedere perché deve essere un posto abbastanza interessante. Pensa che acustica. Il 28 ottobre Masma Dream World, un altro concerto che vi raccomandiamo, sarà a Roma, mentre Tanita Tikaram suonerà a Milano. Il 29 ottobre Divide and Solve appunto suonerà a Roma e la band Liquids, che è una band punk dall'Indiana con una bassista fantastica, sarà al Centro Sociale Bruno di Trento, mentre Venin Carmin suonerà a Lucca il 30 ottobre, Divide and Solve a Milano, Liquids a Parma il 31 ottobre, Dil Navonni e Camilla Sparks, bellissima serata a Bologna il 1 novembre. Camilla, no, basta, non li diamo più. Se no, il 1 novembre Camilla Sparks sarà a Fontana Fredda in provincia di Pordenone e ci sarà un piccolo tour di una band che vi raccomandiamo e che sentirete alla Equasi, che si chiama Flaccid. È una band di donne queer punk che arriva dall'America. Suoneranno il 1 a Catania, il 3 a Roma, il 5 a Pescara, il 7 a Taranto e l'8 a Firenze. Quindi, come vedete, insomma, ci sono un sacco. La maggior parte di questi concerti sono sotto i 25 euro, quindi insomma andate, ci sono tante cose da vedere. Poi abbiamo detto, se va in letargo, quindi insomma approfittatene adesso. Ottobre o mai più. Sono le 19.32, in teoria noi abbiamo finito Likewise, però mettiamo un ultimo pezzo, poi ci salutiamo dando un po' di aggiornamenti sulle iniziative di questa sera contro quella partita infame, insomma, che giocano le nazionali. Nemesis, Stick of Gum. I swear if I showed you a song I made, you'd say it's not your taste. If anyone else but me wrote it, it's a masterpiece. Everything you do for love, just double it and pass it back. Go home. Someone tell me, huh? Are you capable to reciprocate? No matter how high or heavy the take, a stick of gum or dynamite, you could plead guilty and now we'll do the time. Just familiar to me. I believe I self-worth by validation. That's my philosophy. I believe I no need for you to reciprocate. No matter how high or heavy the take, a stick of gum into dynamite, you could plead guilty. Nema Hassan è l'autrice di questo pezzo, Stick of Gum. Lei è una giovane musicista nata a Toronto da una famiglia di rifugiati palestinesi provenienti dalla West Bank. Il video che accompagna la canzone che abbiamo scelto appunto per chiudere questa puntata è stato girato in Palestina, quindi vi linkeremo il suo ultimo viaggio in Palestina a marzo del 2024. Quindi insomma vi linkeremo anche questo video per conoscere un po' di più di questa artista e dell'album che contiene questo pezzo. Abbiamo finito, mettiamo la sigla. Abbiamo finito, sì, mettiamo la sigla e volevamo ricordare un po' di cose, ma devo recuperarle, quindi ho messo la sigla. Allora, vi ricordiamo che alle 20.45 stasera a Piramide, in Piazzale Ostiense, in contemporanea con la vergognosa partita Italia-Israele che si gioca, purtroppo si gioca a Udine, ci sarà appunto una partita, come posso dire, invece bella, una partita per in sostegno della Palestina e diciamo piena di solidarietà, quindi quello che dovrebbe essere lo sport veramente. Kento, rapper e compagno amico di questa radio, ha presentato questo pomeriggio la partita a cui appunto prenderà lui stesso parte insieme ad altre figure dello spettacolo e non solo, che hanno deciso, hanno voluto scendere in campo per giocare questa partita. Quindi insomma andate in Piazzale Ostiense dalle 20.45 a guardare una partita vera, una partita che ha proprio tutta un'altra prospettiva, ecco, e atmosfera. Proprio perché tutto è politica. E, ci sarà, c'è ancora, penso, in corso la contestazione a Udine, dove dove si svolgerà l'incontro. E trovate tutte le testimonianze sul sito della radio ondarossa.info. c'è Roma in campo con la Palestina, c'è la, appunto Kento che racconta la partita di questa sera, e io invece in realtà vi direi di andare proprio a fare il tifo, esatto. E di stare in piazza, che è sempre molto molto bello, e trovate anche la corrispondenza da Udine che c'è stata questo pomeriggio. Sono le 19.37, Likewise finisce qui, vi diamo appuntamento alla settimana prossima alle 18.30 su Radio Onda Rossa. Ciao! Ciao! Here to save your bitches, need us, need our bangers, yell our fakers. Don't move your ass, so ludicrous, raja il gas. Don't move your ass, we bring the cash, fix the backlash. I'm not here to entertain you. I'm not an invitation to trouble. I'm not a cool destination. I'm not an airline company. I don't need your money, you shouldn't think I'm your monkey. I don't need your spaces, I don't need your blessings. To know where I come from, I know where I'm going. Yeah, I'm a low-key person, I keep my low-key strong. You don't know nothing, you don't own nothing. You dominate nothing, we dominate nothing. L'abuelo. What I carry in my chest is bigger than your West. What I carry in my chest is bigger.